Mediaset. Approfondimento settimanale sul lavoro Metropoli Controllo. Un programma di Cristiano Muccini e Andrea Pavin in collaborazione con Amisnet. Un saluto a tutte e tutti dalla redazione di Mediaset. Con la puntata di oggi arriviamo all'undicesima puntata. Oggi andremo a parlare della diffusione delle nuove tecnologie, dello sviluppo di questo tipo di informazione. Nello specifico avremo anche un collegamento in diretta. Parleremo di luci e ombre di Google, una pubblicazione fatta dal gruppo di ricerca Ippolita. E concluderemo il discorso andando a parlare della situazione attuale del network di Indymedia. In studio, in regia Andrea, alla voce Cristiano. La diffusione capillare delle nuove tecnologie del World Wide Web offre alle istituzioni un mezzo potente per accrescere il loro dominio, ma nello stesso tempo consente uno sviluppo dell'informazione e della comunicazione indipendenti, ordinate secondo modelli non gerarchici, che aprono la strada quindi a forme inedite di critica e di lotta. Una tecnologia malleabile e svincolata dai fini impone la necessità di una nuova teoria del potere. Allo stesso tempo rivela la vulnerabilità dei sistemi di controllo sociale. Il dominio, appunto, oltre che nello Stato, si esplica attraverso l'imposizione dei canali della comunicazione. Tra essi, certo, una crescente importanza è occupata dalla rete, che però, per la sua stessa natura, tende all'eliminazione dello squilibrio di conoscenze tra dominante e dominati, con effetti potenzialmente dirompenti. Allora abbiamo in collegamento con noi Anais. Innanzitutto ciao Anais. Ciao a tutti. Anais fa parte appunto del gruppo di ricerca Ippolita, che ha tirato fuori un brillantissimo, questo perlomeno a mio giudizio, pubblicazione, che è appunto Luci e ombre di Google. Ti voglio subito chiedere: che cos'è Ippolita? Ippolita è un gruppo di ricerca che si è formato intorno al 2005 per la stesura di un altro testo che si chiama Open Non è Free, che è un testo sulla differenza fra free software e open source, che è stato pubblicato dalla casa editrice Leutera sempre nel 2005, anche questo è un testo copyleft. Sì, sì, infatti lo vediamo direttamente dal vostro sito. Invece per quanto riguarda luci e ombre di Google, io vedo sempre chiaramente dal sito una vasta rassegna stampa, insomma dicono un po' di tutto. Cominciamo direttamente dal libro, il lato oscuro appunto di Google, qual è questo lato oscuro? Ma ce ne parecchi di lati oscuri, nel senso che noi abbiamo cercato un po' di depurare, diciamo, l'aura sacrale che siamo soliti attribuire a questo grande motore di ricerca, per cui la nostra è stata un po' un'operazione di demitizzazione dell'oggetto tecnologico, perché oramai Google sta diventando un comportamento, anche quando potremmo ricordarci del biglietto che abbiamo attaccato al frigorifero piuttosto che consultare la garzantina di cui magari abbiamo tutta la collezione, noi andiamo su Google e Google risolve il nostro problema di ricerca. Questo è un problema grave, nel senso che le risposte di Google in realtà sono ben distanti dall'essere oggettive o né tantomeno insomma dall'essere neutrali, perché Google è una grande multinazionale che in qualche modo insomma i soldi deve fare, deve far uscire. Certo, per cui diciamo che le risposte che otteniamo sono prima di tutto relative alle nostre ricerche precedenti e successivamente vengono selezionate rispetto a quelli che sono i nostri acquisti online piuttosto che alle nostre frequentazioni comunitarie un po' nel mondo del web. Quindi insomma Google non è esattamente il gigante buono che vuole farci credere d'essere. Anche perché se no non sarebbe quella corporation che è diventata, tra l'altro. Parlate anche di mito appunto della ricerca istantanea, quindi è un mito? Sì, perché Google vorrebbe farci credere di avere mappato tutta quella che è la grandezza della rete di internet, ma noi sappiamo che questo non è possibile perché internet, che è frutto delle elaborazioni umane, ha tantissimi luoghi che sono scuri, poco illuminati, ha tantissimi nodi che sono nodi privati, nodi che non sono accessibili pubblicamente perché magari fanno parte di ulteriori nodi di comunità che hanno creato magari delle cose che non sono accessibili soltanto in parte. Insomma, internet è esattamente come può essere una grande città, e quindi come dire, come ogni grande città ha i suoi vicoli oscuri, mentre Google invece ci fa credere di poter illuminare tutte le zone di questa vasta piana, insomma, che chiamiamo internet. Certo, nelle vostre conclusioni dite appunto che evidentemente non volete avviare una campagna di boicottaggio, anche perché voi stessi vi avrete spesso di Google, però appunto bisogna far chiarezza circa i comportamenti, come dire, subdoli di Google. E vorrei con te parlare di un argomento secondo me molto importante, che è quello della pubblicità e dei profili commerciali che escono da motori di ricerca come Google. Sì, allora intanto ti rispondo alla prima domanda, che è quella un po' relativa al boicottaggio di Google. A noi non interessa boicottare Google, anche perché Google può essere uno strumento estremamente utile. Quello che noi diciamo è che noi, quindi possiamo prendere a pretesto Google per cercare di capire che tipo di comportamenti nuovi possiamo attuare nei confronti delle tecnologie. Cioè dobbiamo cercare di non avere soggezione della tecnologia, ma avere invece un approccio che è curioso, come dire, un approccio che sappia essere critico nei confronti dell'oggetto tecnologico. Noi abbiamo preso Google, ma in realtà il metodo che abbiamo esposto nel libro può essere applicato ad altri oggetti tecnologici. Era un pretesto per cominciare, come dire, a parlare di divulgazione informatica, di divulgazione scientifica in Italia, dove in realtà è possibile trovare pochissimi testi che siano alla portata dell'utente medio, che facciano luce poi su degli oggetti che invece sono, come dire, di uso quotidiano. Per quanto riguarda la profilazione dell'utente è molto semplice, nel senso che perché Google può metterci a disposizione tutta internet? Perché in primis, come dire, il primo filtro che Google utilizza per darci dei risultati è essenzialmente quello della lingua. Per cui se noi parliamo in italiano, facciamo delle ricerche in italiano, noi avremo a disposizione i risultati in italiano e quindi non tutti i risultati disponibili. Successivamente Google, come dire, per essere così veloce nel fornirci un tot di pagine di risultati, deve applicare degli ulteriori filtri. Questi filtri fanno parte, per esempio, di tutte le, vengono fatti per esempio su tutte le ricerche precedenti che noi abbiamo fatto, per cui se io mi occupo di erboristeria e di hockey su ghiaccio, ecco che Google avrà mappato che i miei interessi sono quelli e cercherà di darmi delle risposte quanto più inerenti a, alle mie ricerche. La profilazione però può essere ancora più approfondita, per cui per esempio se io uso alcuni dei servizi di Google, come per esempio quello di posta elettronica Gmail, ecco che Google avrà a disposizione non soltanto le mie preferenze personali, ma anche quello che è il confronto mio con delle altre persone, per cui tutto quell'aspetto, diciamo, comunitario che gira attorno al web e all'utilizzo dei servizi su internet. E così la maglia si stringe sempre di più. Questi sono solo alcuni esempi, poi noi nel libro andiamo ad analizzarli tutti quanti, andiamo un po' a, nello specifico di quella che è la profilazione dell'utente, di quella che è la disposizione anche della pubblicità che noi troviamo assolutamente defilata sulla colonna di destra e, come dire, mai invasiva. Però anche rispetto alla pubblicità c'è una profilazione. E così, per cui insomma noi non andiamo tanto ad analizzare l'ultimo ritrovato di Google, l'ultimo servizio messo a disposizione, quanto più andiamo un po' sul dietro le quinte di Google, cioè come fa Google a funzionare così bene, perché Google riesce a fare tutti i soldi che fa e soprattutto come è possibile un po' uscire da questa situazione. Certo, volevo scambiare due battute con te circa Google e paesi come la Cina. Questo è interessante perché ci sono state varie polemiche su questo, ma io credo che la Cina, come dire, abbia la possibilità di sviluppare tecnologie assolutamente, come dire, al passo coi tempi, per cui non, come dire, non mi stupirebbe un motore di ricerca tutto cinese in questo momento. Dopodiché sicuramente Google cercherà in ogni modo di accaparrarsi il mercato cinese, come già sta facendo, anche andando incontro alle mediazioni che il governo cinese vorrà optare rispetto a quella che è la relazione con un motore di ricerca così grande, così importante. Certo. Un'ultima domanda, secondo te, chiaramente andiamo un po' in un campo, come dire, non definito, insomma andiamo un po' verso il futuro, se così si può dire, un motore di ricerca come Google potrà configurarsi, a meno che non lo sia già oggi, come una struttura di potere non verticale, voglio dire, potrà servire poi in definitiva a un dominio, una struttura di potere in questo caso orizzontale, nel senso che è molto meno potrà essere molto meno chiara nella sua non gerarchia, no? Perché voglio dire, comunque Google così istantaneamente può non sembrare una forma di potere verticale, però potrebbe in qualche modo indirizzare, come dire, le forme di repressione e di controllo attuate dal dominio, proprio perché tutti alla fine vanno a delegare le proprie esigenze al motore di ricerca. Allora, per rispondere a questa domanda c'è un capitolo in particolare del nostro libro che parla di questo. Bisogna un po' andare a capire qual è la cultura di riferimento di Google. La cultura di riferimento di Google è essenzialmente quella accademica, quindi quella della ratificazione dei pari, quelli che noi abbiamo definito tecnocrati in questo caso. Ai vertici di Google indubbiamente, come dire, esiste una gestione sia, come dire, estremamente verticistica che estremamente, come dire, deterritorializzata, reticolare, e quindi permette, come dire, a ognuno di esprimere la propria opinione in quella che è la valorizzazione del prodotto tecnologico che loro propongono. Questo cosa significa? Significa che poi la struttura che ci viene proposta è una struttura che rispecchia questa cultura di riferimento, che è una cultura estremamente elitaria, per cui per esempio la gerarchia dei dati che ci viene proposta, perché è una gerarchia di dati, cioè questa affermazione sottende la domanda, perché abbiamo un primo risultato e un ultimo risultato, che differenza c'è tra il primo risultato che ci propone e il terzo? Allora, per rispondere a questa domanda bisogna andare appunto a capire qual è questa cultura di riferimento. Allora, essenzialmente i primi risultati sono quelli che sono maggiormente connessi, cioè quelli che hanno il maggior numero di citazioni all'interno di altri siti ritenuti a loro volta importanti, per cui il primo risultato è il nodo maggiormente connesso della rete. Questo è lo specchio di quelle che sono le pubblicazioni scientifiche, che diventano importanti quanto più sono citate da altre pubblicazioni, quanto più sono ratificate dalla menzione presso altre pubblicazioni. E questa è, come dire, la cultura che Google ci propone, per cui Google ritiene che il risultato più esatto sia quello del nodo maggiormente connesso sulla rete. Ma non è detto che questo sia il miglior risultato per noi, soggetti della ricerca, per noi che svolgiamo la ricerca su internet. È un punto di vista, Google ci propone un punto di vista, non ci propone una, come dire, ricerca oggettiva tra i dati, ma proprio perché l'oggettività non esiste, perché siamo noi a decidere se un risultato è buono, approssimativo o scadente. Siamo noi che siamo i soggetti attivi della rete, mentre invece Google ci fa credere che, siccome a decidere la scala gerarchica dei dati che ci propone è un algoritmo e l'algoritmo è matematico e quindi essenzialmente è un qualcosa di neutro, allora la ricerca che noi avremo a disposizione sarà una ricerca oggettiva, e questo è, come dire, concettualmente errato. Certo, di fondo è assolutamente errato. Anais, noi ti ringraziamo, ricordiamo il sito che è www.ippolita.net, la pubblicazione che è Luci e ombre di Google, futuro e passato dell'industria dei metadati di Feltrinelli 2007. Ancora un grazie e un saluto. Grazie mille a tutti. Ciao. Allora, dopo aver esaminato luci e ombre di Google, abbiamo parlato dei meccanismi repressivi che oggi sono più efficaci se adottati in una forma reticolare, ossia vale a dire una struttura di potere non verticale, quelle storiche, quelle classiche, gerarchiche, e appunto le strutture più efficaci oggi repressive sono strutture di potere orizzontale, di potere distribuito, tutto ciò aiuta molto alla repressione piuttosto che una struttura verticale oggi. I fenomeni appunto di questo tipo oggi sono molto più visibili se non danno nell'occhio come in passato. andiamo a parlare appunto, sviluppando il concetto dell'informazione, come non potremmo tornare su Indie Media e nello specifico di Indie Media Italia. Parliamo con Leopoldo di Amisnet, proprio di Indie Media, del tipo di network che si è sviluppato in esso. Un tuo breve cenno circa l'utilizzo che ne hai fatto. Sì, guarda, io insieme alla redazione di Amisnet seguiamo, diciamo, l'informazione in rete con grande attenzione, quindi Indie Media ha sempre rappresentato un punto di riferimento importante, no, sulla rete, soprattutto per quanto riguarda proprio l'orizzontalità della fonte, no? Cioè una fonte diversa dalle solite agenzie di notizie, proprio perché riporta le opinioni non tanto di giornalisti o di persone, diciamo, che lo fanno per lavoro, quanto di attivisti, di gente che partecipa alle reti sociali, alle azioni, alle mobilitazioni. Quindi sicuramente Indie Media, anche Indie Media Italia, ha rappresentato questo strumento, questa orizzontalità e questa democraticità dell'informazione. Certo, poi dietro ci sono anche dei contrattempi, no? Proprio che hanno portato poi di fatto alla prima crisi che Indie Media ha affrontato, quindi Indie Media Italia, dico, cioè questa poi la necessità di un controllo molto attivo da parte dei moderatori sul Newswire, che era sicuramente uno strumento molto interessante, ma poi come capita a molti aspetti della rete, veniva subissato, diciamo, di spam, di provocazioni, di propaganda. Quindi insomma sono convinto che è stato necessario forse questo atto che è stato fatto da Indie Media Italia, di chiudere per ricominciare meglio. Verso dove va però nel momento in cui riaprirà di nuovo Indie Media Italia, anche se sappiamo che alcune sezioni già hanno riaperto, dove andrà Indie Media in questo senso? Beh, da quello che ho capito io, diciamo, non partecipando comunque alle riunioni, ma proprio da utente, vedendo un po' i cambiamenti nel sito, c'è sicuramente forse un intento di riportare Indie Media Italia sul territorio, quindi di territorializzarsi per poi poter, diciamo, essere responsabili dal vivo di quello che si dice, quindi se si dice qualcosa, se succede qualcosa nel Lazio, se ne occuperà Indie Media Roma, sapendo che è responsabile, insomma, di quello che dice, sapendo che non sono, diciamo, questioni che vengono poi postate e girate chissà da chi. Quindi credo che poi è anche un po' l'esempio poi di quello di Indie Media americano, che continua a funzionare proprio perché è fatto proprio di numerosissime isole sparse per il territorio, che poi riescono a coordinare meglio così il flusso di notizie, il flusso di avvenimenti che vengono postati. Ok, noi ti ringraziamo e ti diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao, grazie a tutti. Allora, in conclusione abbiamo parlato di nuove tecnologie, dello sviluppo dell'informazione, abbiamo parlato con Anais di Luci e Ombre di Google, abbiamo parlato con Leo della situazione passata e del percorso futuro che andrà a fare Indie Media. Salutiamo tutte e tutti e diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Y nada. abbraccio nell'aere e siamo. Quiere libre.